Liebe Genossen, Genossen. Nella sede dell'SPD, a pochi minuti dalle prime proiezioni, Martin Schulz riceve un caloroso applauso dai suoi sostenitori, ma è di consolazione, i socialdemocratici hanno perso. È un attacco alla socialdemocrazia, dice Schulz. Con poco più del 20% l'SPD ha il suo peggior risultato nelle elezioni che vedono per la prima volta un partito di estrema destra entrare nel Bundestag. Abbiamo un problema, riconosce Angela Merkel. Und natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns, das ist der Einzug der AfD in den deutschen Bundestag. Il problema si chiama Alternative für Deutschland, ma si chiama anche Germania dell'Est. È nelle regioni della ex DDA che il partito di Alexander Gauland e di Alice Weisel fa il pieno di voti, arrivando anche oltre il 30%. La Sassonia in particolare è il land dove Alternative für Deutschland elegge il suo primo candidato con mandato diretto. È Frauke Petri, ex leader e attuale portavoce, già deputato regionale, che conquista il 37,4% dell'elettorato nella circoscrizione della Svizzera Sassone, sorpassando l'attuale ministro dell'interno Thomas de Maizière, candidato della CDU. Ed è proprio la CDU a cedere voti in favore dell'estrema destra, con percentuali che vanno dal 15 al 20% in meno. Non a caso Martin Schulz, nel confronto televisivo di ieri sera, molto pacato tra l'altro, ha accusato Angela Merkel di aver creato quel vuoto nel quale si sono inseriti populisti e destra estrema. Del resto, Alexander Gauland è un ex esponente della CDU, partito di cui è stato dirigente per 40 anni. A favore di Alternative für Deutschland ha giocato anche l'appoggio esplicito dato da movimenti come Pegida, che nelle ultime manifestazioni ha sfilato con i manifesti elettorali del partito, e dai nazionalisti dell'NPD, che sono praticamente scomparsi con la loro sigla dalla scena politica, raggiungendo solo in pochi casi percentuali superiori al 2%. In Sassonia sono crollati sotto l'1%, ma i loro esponenti sono confluiti nelle fila di Alternative für Deutschland dopo la svolta a destra imposta da Weisel e Gauland con l'allontanamento di Frauke Petri. Nonostante questo, le regioni dell'est non si sentono razziste o naziste. I risultati del voto non disegnano una mappa omogenea. Dresda, la città dove Pegida è nata e l'unica dove conserva ancora un movimento strutturato, non ha visto trionfare i nazionalisti, che pure superano il 20%, mentre a Lipsia, contrariamente alle previsioni, Alternative für Deutschland è il primo partito in ben 4 quartieri con risultati vicini al 30%. Già da ieri comunque gli antifascisti tedeschi si sono mobilitati, hanno cominciato a Berlino con una manifestazione proprio sotto il locale dove festeggiava Alternative für Deutschland. Lo hanno fatto anche nelle altre città, a Francoforte sul Meno, a Colonia, a Lipsia stessa. Sono previste per oggi ancora altre manifestazioni. Sul fronte invece della composizione del governo, nonostante il tempo meteorologico piove e fa freddo, l'unica opzione possibile sembrerebbe, dopo il rifiuto di Martin Schulz di fare una nuova coalizione, quella della Giamaica, democristiani, liberali e verdi. E da Lipsia, da Radio Bullets, per Radio Città Fujiko è tutto. Buona giornata.